giorno una mattina con vapore e una bella bambina gli arrivò. Vedendomi la fa, scusi signore, perdoni, le di fiore, sì lo so. Lei torna a casa lieto, bello vedo, ed un favore piccolo vi chiedo. La porti un bacione a Firenze, che è la mia città, che in cuore ho sempre vi. La porti un bacione a Firenze, lavoro sol per rivederla un dì. Son figlia d'emigrante, per questo son distante, lavoro perché un giorno a casa tornerò. La porti un bacione a Firenze, se la rivedo e glielo renderò. Bella bambina, le ho risposto allora, il tuo bacione a casa porterò. E per tranquillità mi dà quest'ora, in viaggio chiuso a chiave lo terrò. Ma appena giunto a casa te lo giuro, il bacio verso il cielo andrà sicuro. Io porto il tuo bacio a Firenze, che è la tua città ed anche l'è di me. Porto il tuo bacio a Firenze, né mai giammai potrò scordarmi te. Sei figlia d'emigrante, per questo sei distante, ma sta sicura, un giorno a casa tornerai. Porto il tuo bacio a Firenze, e da Firenze tanti baci avrai. L'è vera questa storia, e se non fosse, la può passar per vera sol perché. So bene e lucciconi e quanta tosse, e a chi distante dalla patria gli è. Così ogni fiorentino è lontano, vedendoti partiti dirà piano. La porti un bacione a Firenze, e tanto che un cibo ci crede, più un ci sto. La porti un bacione a Firenze, non vedo l'ora quando tornerò. La nostra cittadina graziosa e sì carina, ha già tant'anni eppure non ne invecchia mai. Porto i bacioni a Firenze di tutti i fiorentini che incontrai.